respiro più. Manca l'aria intorno a me. Ho deciso che mollo tutto e vado via. È tanto tempo che sono quello che dici tu. Adesso è giusto che penso pure a me. E se tu sei come gli altri, mi allontano da te. Questo è il treno mio. Salgo in corsa e scappo da. Tutto è inutile. Devo stare sola. Non posso più sentire. Non voglio più parlare. Non riesco più a vedere cos'altro c'è. Mi sembra che morirò. Datemi un'isola mia. Lascio tutto alle spalle, forse non tornerò. Sono sicura non capirete. E nel mio angolo blu sotto le stelle sarò. Esprimerò i miei pensieri, scriverò le mie idee. Vivrò sperduta tra i monti e gli alberi. E manderò ciò che trovo in baruscello. Deciso che io ti porterò.